America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. We have a practice of not meeting with leaders right before their elections, 2 weeks before their elections. As much as I love Angela, if she was 2 weeks away from an election, she probably would not have received an invitation to the White House. And I suspect she wouldn't have asked for one. So, you know, Obama e Angela Merkel, incontro chiave, incontro storico, ieri a Washington. Perché storico? Beh, perché, come dire, si dà un'ultima chance alla pace fra Ucraina, ribelli e Russia. Cosa ha caratterizzato l'incontro di ieri? Beh, tensione intanto, tensione per l'oggettiva situazione in cui ci troviamo, realismo, molto realismo su quelle che possono essere reali possibilità di un accordo domani, però disponibilità per quest'ultimo tentativo che possa portare a un cessate il fuoco in Ucraina. We also stand up for the interests of the European peaceful order, and this is what the French president and I have been trying to do over the past few days. We're going to continue those efforts, and I'm very grateful that throughout the Ukraine crisis, we have been in very, very close contact with the United States of America and Europe. Ecco, dopo gli incontri a porte chiuse, incontro stampa, conferenza stampa, mi ha colpito, devo dire, il tono della Merkel, perché è stato un tono, come dire, possibilista, con un minimo di speranza, ma anche molto realista, come dire, non voglio farmi illusioni, perché forse di illusioni ce ne siamo fatte troppo. Ecco, e qui dice: Hollande e io abbiamo deciso di fare un ultimo sforzo per ottenere un accordo di diplomatico. Personalmente non potrei vivere senza aver fatto questo tentativo. E questa posizione, appunto, realista della Merkel è affiancata da tre iniziative d'appoggio. La prima è in Europa e si è deciso di sospendere le nuove sanzioni che sono state adottate in attesa dei risultati del negoziato di mercoledì. E questa, come dire, è una manovra di apertura a Mosca, perché c'è stata ieri una riunione dei ministri degli esteri dei 28 a Bruxelles, era un vertice che era stato fissato da parecchio tempo, e dopodiché, appunto, nel corso di questo vertice sono state decise nuove sanzioni, però la data di applicazione è stata spostata al 16 febbraio. Ecco, queste azioni, queste misure naturalmente hanno un impatto inevitabile sull'economia europea. Ci sono delle resistenze in Europa e qualcuno dice che l'Europa sta pagando molto più dell'America, perché l'interscambio fra Europa e Russia è superiore ai 200 miliardi di euro, quello fra Stati Uniti e Russia appena 19-20 miliardi di euro. Eppure questo è il momento in cui il fronte non si può rompere. If in fact diplomacy fails, what I've asked my team to do is to look at all options. What other means can we put in place to change Mr. Putin's calculus? And the possibility of lethal defensive weapons is one of those options that's being examined. But I have not made a decision about that yet. Ecco, Barack Obama, lo avete sentito, non solo gli Stati Uniti manterranno le sanzioni, a differenza dell'Europa, però, insomma, quel che più conta è che Obama ieri ha confermato che l'America è pronta ad inviare armi letali all'Ucraina per consentire di difendersi dai ribelli e da questo invincibile, enorme, fortissimo, potentissimo esercito russo che appoggia i separatisti. Finora l'America di Obama ha sempre cercato di preferire la soluzione diplomatica. Ecco, ieri ci sono stati dei cambiamenti nei toni, nelle sfumature. Insomma, rispetto al passato, Barack Obama è apparso leggermente più aggressivo e devo dire anche in qualche modo rinunciatario, come se non ci credesse più, come se si dovesse preparare al peggio. Proprio lui, il presidente che ha vinto il premio Nobel per la pace, ecco che si ritrova di nuovo in mezzo a un conflitto armato. Ci sono le pressioni dell'estrema destra repubblicana. Il senatore Ted Cruz del Texas, per esempio, chiedeva di inviare subito delle armi all'Ucraina, e questa è la dichiarazione che vi ho fatto ascoltare prima dal presidente Obama, verbatim. Dice Obama: se lo faremo, non manderemo le armi perché l'Ucraina possa sconfiggere la Russia, ma perché possa contrastare i separatisti. La prospettiva di una soluzione militare è sempre stata minima. Non c'è soluzione militare, dice Obama. I confini dell'Ucraina sono vastissimi, dunque respingere la Russia è molto difficile, ma farle pagare un prezzo elevato per la sua violazione delle integrità territoriali non lo è. Ecco, un tono duro e minaccioso, quello di Obama e dell'America, che sta davvero perdendo la pazienza davanti al gioco a scacchi di Vladimir Putin, soprattutto un atteggiamento, come vi dicevo prima, come si dice in America, bad cop, good cop, cioè il gioco delle parti fra il buono, la buona, Merkel, che dice, beh sì, però apriamo, proviamo, facciamo un ultimo tentativo, speriamo di riuscirci, sono realista, forse non ci riusciremo, ma ci proviamo. E il duro Obama che dice, benissimo, proviamo, proviamo, preferiamo la soluzione diplomatica, ma se non funziona, beh, allora dovremo passare a una fase successiva, la scelta, naturalmente, spetta a Putin. With regard to ISIL, Germany and the United States remain united in our determination to destroy this barbaric organization. I thanked Angela for her strong support as a member of the international coalition that is working in Iraq. I due leader hanno discusso anche di Iran, di terrorismo, hanno esplorato la necessità di garantire la privacy dopo lo scandalo Snowden e in particolare sul terrorismo sentiamo la dichiarazione di Obama. Dice, siamo uniti per distruggere l'ISIS, abbiamo fatto un grande passo avanti in Iraq con l'addestramento delle truppe anche grazie alla Germania. Con la leadership di Merkel, della Germania, abbiamo avuto nuove leggi per evitare il viaggio di terroristi dalla Germania all'Iraq. Angela e io abbiamo riconosciuto che i giovani in entrambi i nostri paesi sono un obiettivo dell'ISIS, che cerca di reclutarli. E poi aggiunto, la Germania ha preso l'importante decisione di armare i curdi iracheni. Ecco il seme delle divisioni. We stand up for the same principles of inviolability of territorial integrity. For somebody who comes from Europe, I can only say if we give up this principle of territorial integrity of countries, then we will not be able to maintain the peaceful order of Europe that we've been able to achieve. Ecco, la Merkel, anche lei, che pure decide di dare delle armi ai curdi, dice che non vede una soluzione militare, perché una soluzione militare, lo sappiamo, soprattutto in Europa, non porterà a nulla. È in gioco la pace in Europa, ha sottolineato, e questo dobbiamo ricordarcelo. Il principio della sovranità territoriale è essenziale. Se rinunciamo a quel principio, allora l'ordine e la pace che abbiamo raggiunto nell'Europa non può essere mantenuto. Ecco, su questo Barack Obama e Angela Merkel sono assolutamente allineati. Ecco, nel dibattito sull'opportunità di armare l'esercito ucraino, dibattito che è infiammato ovviamente negli Stati Uniti, adesso anche in Europa, abbiamo avuto anche un intervento del ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, che ha confermato che l'Italia è contraria a fornire armamenti all'Ucraina e ha detto né oggi né domani, e quindi in aperto contrasto con la posizione americana, in contrasto anche con la posizione tedesca, che invece per esempio dà delle armi ai curdi. E devo dire, la cosa peggiore che potrebbe capitare in questa crisi, lo dicevo prima, è proprio una spaccatura del fronte finora unito degli alleati europei. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su ameria24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Domenica vi ho dato un piccolo reportage ieri, abbiamo avuto i Grammy Awards. Questa settimana voglio farvi ascoltare le canzoni più importanti che hanno vinto i Grammy, e dunque mi sembra giusto dare spazio a Beck, che torna a portare il suo rock alternativo ai piani alti dell'industria musicale. Il suo Morning Phase è il miglior album dell'anno. Devo dire, è stata un po' una sorpresa, ma visto che ha vinto, se lo merita. La canzone di Beck, Blue Moon, singolo d'apertura del suo album. Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.